Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Lucy Westenra. 12 settembre. Come sono tutti buoni con me. E quel caro dottor Van Helsing, lo amo proprio. Chissà perché si è agitato tanto per quei fiori. Mi ha decisamente spaventata con la sua severità. Eppure doveva avere ragione, perché già mi hanno dato giovamento. Non so perché non ho paura di stare sola questa notte. Posso mettermi a dormire senza timori. Non mi preoccuperò di nessun rumore fuori dalla finestra. Oh, che terribili lotte contro il sonno ho dovuto sostenere spesso in questi ultimi tempi, la sofferenza dell'insonnia e la sofferenza provocata dalla paura del sonno, che per me riserva ignoti terrori. Come sono fortunate certe persone che non conoscono né paura né spaventi. Per loro il sonno è una benedizione che arriva ogni notte arrecando soltanto dolci sogni. Ebbene, stasera sono qui, piena di speranza di dormire, giacente come Ofelia nella tragedia, con verginali ghirlande e fanciulleschi fiori sparsi. L'aglio non mi è mai piaciuto, ma questa notte mi sembra delizioso. Il suo odore emana pace. Sento già venire il sonno. Buonanotte a tutti. Diario del dottor Seward, 13 settembre. Sono andato al Berkeley, dove ho trovato Van Helsing puntuale come al solito. La carrozza ordinata dall'albergo ci aspettava. Il professore ha preso la sua borsa, che ora porta sempre con sé. Vediamo di riferire i fatti con ordine. Siamo arrivati a Hillingham alle 8. Era una bellissima mattinata. Il sole splendeva e tutte le fresche sensazioni dell'autunno agli inizi sembravano completare l'opera annuale della natura. Già le foglie prendono ogni sorta di stupendi colori, ma ancora non hanno cominciato a cadere dagli alberi. Entrando in casa abbiamo incontrato la signora Westenra, che usciva da un salotto perché ha l'abitudine di alzarsi presto. La signora ci ha accolti con calore e ha detto: «Vi farà piacere sapere che Lucy sta meglio. Ero in ansia per la mia povera bambina questa notte e sono andata in camera sua. Dormiva profondamente, tanto profondamente che non l'ho neppure svegliata entrando. Ma l'aria nella stanza era terribilmente viziata. Dappertutto erano sparsi quegli orrendi fiori dall'odore così acre. E lei ne aveva addirittura un mazzo sul collo. Temendo che quel puzzo fosse troppo forte per la cara piccola, date le sue condizioni di debolezza, li ho portati via tutti e ho aperto un poco la finestra per lasciare penetrare dell'aria pura. Sono certa che la troverete molto bene». Detto questo, è andata nel suo studiolo, dove usualmente fa colazione presto. Mentre parlava, io avevo tenuto d'occhio il viso del professore e l'ho visto diventare color della cenere. Van Helsing era riuscito a dominarsi in presenza della povera signora, perché conosceva il suo stato e si rendeva conto del danno che un trauma avrebbe potuto arrecarle. È arrivato perfino a sorriderle nell'aprirle la porta del salotto. Ma non appena la signora se n'è andata, mi ha subito spinto con energia nella sala da pranzo di cui ha chiuso l'uscio. Allora, per la prima volta nella mia vita, ho visto Van Helsing crollare. Ha alzato le mani sopra la testa in un gesto di muta disperazione. Si è battuto le palme una contro l'altra, angosciato della sua impotenza. Infine si è abbattuto su una sedia e, nascondendosi il viso tra le mani, si è messo a piangere, con singhiozzi forti, secchi, che sembravano venire dallo strazio del suo cuore. Poi, sollevando di nuovo le mani, come se facesse appello all'universo intero, ha esclamato: «Dio, Dio, Dio! Che cosa abbiamo fatto? Che cosa ha fatto quella povera creatura? Perché tanta afflizione attacca noi? Tra noi è dunque ancora il fatale destino che viene da antico mondo pagano e fa che accadano queste cose in questa maniera?» D'un tratto è balzato in piedi. «Venite», mi ha detto, «venite! Noi dobbiamo vedere e agire. Diavoli o non diavoli, o tutti diavoli insieme, non importa, noi combattiamo lui lo stesso». È andato in anticamera a prendere la sua borsa e insieme siamo saliti nella camera di Lucy. Anche questa volta ho alzato la tenda mentre Van Helsing si accostava al letto. Non ha sussultato alla vista di quel povero volto soffuso del terrificante cereo pallore, lo stesso di 2 giorni prima. La sua espressione era di severa tristezza e di infinita pietà. «Come mi aspettavo», ha mormorato, inspirando il fiato con quel sibilo tanto espressivo. Senza una parola è andato a chiudere la porta. Poi ha cominciato subito a sistemare sul tavolino gli strumenti necessari per un'altra trasfusione di sangue. Avendone già previsto l'urgenza, io stavo togliendomi la giacca, quando il professore mi ha fermato con un gesto di avvertimento. «No», ha detto. «Oggi voi dovete operare. Sangue provvedo io, voi siete già indebolito». E intanto si levava la giacca e si arrotolava una manica della camicia. Di nuovo un intervento, di nuovo una narcosi, di nuovo un certo ritorno di colore sulle guance smunte e la respirazione regolare di un sonno benefico. Questa volta sono stato io a occuparmi di tutto mentre Van Helsing si riprendeva e riposava. Pall Mall Gazette, 18 settembre. Il lupo fuggito. Pericolosa avventura del nostro corrispondente. Intervista al guardiano del giardino zoologico. Dopo molte richieste di informazioni e quasi altrettanti rifiuti, e usando costantemente le parole Pall Mall Gazette come una sorta di talismano, sono riuscito a trovare il guardiano della sezione del giardino zoologico dove è sito il reparto lupi. Thomas Bilder abita in una delle casette incluse nel recinto, dietro la casa dell'elefante, e stava prendendo il tè quando sono andato da lui. Thomas e sua moglie sono gente ospitale, anziani e senza figli, e se il saggio dell'ospitalità che ho goduto costituisce per loro la norma, devono condurre una vita abbastanza agiata. Il guardiano non ha voluto parlare di quelli che lui definisce affari, finché non abbiamo terminato il pasto e ci siamo sentiti tutti sazi. Dopo che la tavola è stata sparecchiata, si è acceso la pipa e ha detto: «Va bene, capo. Adesso vi conto tutta la storia. Qui ci avevamo un lupo che noi lo chiamavamo Berserker. Era uno dei 3 grigi arrivati a Jamrek dalla Norvegia, che noi li abbiamo comprati 4 anni fa. Era un simpatico lupo, ben educato, che non ha mai dato fastidi, che vale la pena di parlarne. Sono sorpreso che lui ha voluto scappare molto più che se lo faceva un altro animale di questo posto, ma vedete, non si può fidarsi dei lupi, come neanche delle donne». «Non fategli caso, signore», ha esclamato sua moglie con un'allegra risata. «E talmente tanto che sta in mezzo alle bestie che anche lui è diventato come un vecchio lupo. Però non fa mica male». «Bene, signore. È stato ieri, 2 ore dopo il mangiare, che ho sentito che qualcosa non andava bene. Io stavo lì nella casa delle scimmie a preparare una lettiera per un piccolo puma che è malato. Ma quando ho sentito strillare e uggiolare, ho corso subito lì. C'era Berserker, che tirava come un matto le sbarre, come se voleva uscire. C'era poca gente in giro, e lì, vicino, solo un uomo, un tipo alto, magro, con il naso a becco e la barba punta, che ci aveva dentro un po' di fili bianchi. Ci aveva uno sguardo duro e freddo, gli occhi rossi, subito lo vuoto andando a dire. Sembrava che era lui che faceva arrabbiare i lupi. Aveva guanti bianchi, di capretto sulle mani, ha indicato le bestie, ha detto: «Guardiano, questi lupi sembrano agitati da qualche cosa». «Forse da voi», ci rispondo io, perché non mi piaceva le aree che si dava. Ma lui non si è arrabbiato come speravo io, ma ha fatto un sorriso insolente, una bocca piena di denti bianchi aguzzi. «Eh no, io a loro non piaccio», ha detto. «O sì che ci piacete», ci ho risposto io imitandolo. «A loro ci piace sempre un osso o due per pulirsi i denti all'ora del tè, e voi di ossa ce ne avete un sacco». «Bene, è proprio una cosa strana. Ma quando le bestie hanno visto che noi si parlava insieme, si sono messe giù, tranquille. E quando io mi sono avvicinato a Berserker, lui si è lasciato grattare le orecchie, come sempre. Poi è venuto l'uomo, e che mi viene un accidente se non è vero. Anche lui ha messo dentro la mano e ha carezzato le orecchie del vecchio lupo. «Fate attenzione», ho detto. «Berserker è svelto». «Non vi preoccupate», dice lui, «io sono abituato ai lupi». «Ma siete anche voi del ramo?» Ci ho domandato io e mi sono cavato il berretto, perché uno che commercia in lupi è un buon amico per i guardiani. «No», ha risposto lui, «non proprio nel ramo, ma ne ho addomesticati tanti». E su questo si è levato il cappello, che pareva un vero lord, e se n'è andato. Il vecchio Berserker è rimasto lì a fissarlo finché non è più stato in vista. Poi è andato a sdraiarsi in un angolo e non ha più voluto muoversi per tutta la sera. Bene, ieri notte, appena è venuta su la luna, i lupi hanno cominciato a ululare. Non c'era niente da ulularci dietro. Vicino non c'era nessuno, tranne uno che stava a chiamare un cane da qualche parte dietro ai giardini di Park Road. Una volta o due sono andato fuori a vedere se tutto va bene. Andava bene. Poi i lupi hanno smesso di ululare. Poco prima di mezzanotte ho fatto un giro prima di mettermi giù. E accidenti a me? Quando arrivo davanti alla gabbia del vecchio Berserker, vedo le sbarre rotte e contorte, e la gabbia vuota. E questo è tutto quello che so, con certezza. Nessuno ha visto altro. Circa quell'ora uno dei nostri giardinieri tornava a casa da una festa e ha visto un grosso cane grigio venire fuori dalla siepe del giardino. Almeno lui dice così. Ma io non ci credo mica tanto, perché lui non aveva detto una parola alla sua signora quando è tornata a casa. E solo dopo che si è saputo che il lupo era scappato e noi siamo stati a dargli la caccia al vecchio Berserker nel parco per tutta la notte, a lui ci è venuto in mente che aveva visto qualcosa. Ma io credo che la festa ci ha dato la testa, invece. Signor Bilder, lei si spiega in qualche modo la fuga del lupo? Beh, signore, mi ha risposto con una ridendo sospetta. Una certa idea ce l'avrei, ma non so se la mia teoria vi accontenterà. Ma certamente, se un uomo come voi, con un'esperienza diretta degli animali, non potesse azzardare una supposizione, chi altro potrebbe farlo? Allora ecco, signore, io me lo spiego così. A me mi pare che se quel lupo è scappato è perché voleva andarsene. Dall'allegra risata in cui sono scoppiati Thomas e sua moglie, ho capito che la battuta era già stata sfruttata e che la spiegazione voleva essere semplicemente un elaborato scherzo. Non potendo rivaleggiare in celi con il valoroso Thomas e credendo di non conoscere una via più sicura per arrivare al suo cuore, gli ho detto: «Via, signor Bilder, considereremo consumata quella mezza sovrana. Qui c'è sua sorella che aspetta di mettersi con lei, non appena mi avrete detto come pensate che andrà a finire la faccenda». «Giusto, signore», ha esclamato Thomas con vivacità. «Voi mi scusate, lo so, perché io vi ho scherzato un po', ma la vecchia qui mi ha strizzato l'occhio, era come incoraggiarmi ad andare avanti». «Io? Questa poi?» ha protestato sua moglie. «Io la vedo così. Il lupo si nasconde da qualche parte». Il giardiniere che non ricordò dalla dacia che parlava verso nord più in fretta di quello che può correre un cavallo, ma io mica ci credo. Perché vedete, signore, i lupi non galoppano più di un cane, non sono mica fatti per correre. I lupi sono una bella roba in un libro di favole, e io vi posso dire che quando sono in branco e danno la caccia a qualche cosa che c'è ancora più paura di loro, possono fare un baccano del diavolo e farla a pezzi quella cosa, qualunque cosa è. Ma Dio vi benedica, nella vita normale il lupo è solo una bestia inferiore, senza neanche metà dell'intelligenza e del coraggio di un buon cane, e neanche mezzo quarto della sua capacità combattiva. Questo qui non è abituato a combattere, né a provvedere a se stesso. Così è probabile che si nasconda in qualche parte, qui nel parco, e trema di paura. Se è capace di pensare, pensa dove può andare a prendersi la sua colazione. O forse se è sceso giù, in un altro posto, in qualche cantina. Che fiva si prenderà qualche cuoca quando vedrà i suoi occhi verdi brillare nel buio. Certo, se lui non riesce a trovare qualche cosa da mangiare, dovrà andare a cercarlo. E a un certo momento può anche andare a finire in una macelleria, se no. E capita che una bambinaia se ne va a passeggio con un soldato, lasciando il piccolo nella sua carrozzina. Beh, allora non mi stupirei se il censimento conta un bambinetto di meno. Ecco tutto. Stavo porgendo a Bilder la mezza sovrana quando qualcosa è venuto a sbattere contro la finestra e la sua faccia è diventata lunga il doppio per lo stupore. Che mi venga un accidente se questo non è il vecchio Bersi che torna per conto suo. È andato verso la porta e l'ha aperta. Un procedimento che mi è sembrato assolutamente fuori luogo, perché ho sempre pensato che un animale selvaggio non è mai così bello come quando tra me e lui si drizza un ostacolo tenace e robusto, e la mia esperienza personale ha rafforzato quest'idea più che indebolirla. Dopotutto però niente vale come l'abitudine, perché né Bilder né sua moglie si preoccupavano del lupo più di quanto io mi sarei preoccupato di un cane. Del resto l'animale era pacifico e ben educato come il padre di tutti i lupi delle illustrazioni, l'ex amico di Cappuccetto Rosso, quando cercava, mascherato, di conquistarsi la sua fiducia. L'intera scena era un indescrivibile miscuglio di commedia e di pathos. Il lupo cattivo che aveva paralizzato Londra per mezza giornata e fatto tremare tutti i bambini della città era lì, in un atteggiamento quasi pentito, e veniva accolto e vezzeggiato come una specie di figliol prodigo in veste volpina. Il vecchio Bilder l'ha esaminato completamente con la più tenera sollecitudine e, terminata l'analisi del suo penitente, ha detto: «Ecco, non sapevo io che il povero vecchio si andava a ficcare in qualche pasticcio, non seguitavo mica a dirlo. Ha tutta la testa tagliata e piena di pezzi di vetro, deve essere andato su qualche maledetto muro o qualche altra roba, è una vergogna che alla gente gli lasciano mettere bottiglie rotte sui muri. E così succede questo. Vieni, vieni, vieni, vieni, Bersicker». Ha preso il lupo e lo ha chiuso in una gabbia, insieme con un pezzo di carne, che almeno come quantità soddisfaceva i principi fondamentali del vitello grasso. Poi è andato a fare il rapporto. E sono andato anch'io a stendere il mio rapporto. L'unica notizia in esclusiva fornita oggi sulla strana fuga di un lupo dallo zoo. Nota lasciata da Lucy Westenra. 17 settembre. Notte. Scrivo questa nota e la lascio bene in vista, in modo che nessuno abbia a incorrere in eventuali guai per causa mia. Questo è il resoconto esatto di quanto è accaduto questa notte. Mi sento morire di debolezza e ho a malapena la forza di scrivere, ma lo devo fare, anche a costo della vita. Malignamente il sonno mi assillava proprio quando non lo volevo. Così, temendo di essere sola, ho aperto la porta e ho chiamato. «C'è nessuno?» Non ho avuto risposta. Per timore di svegliare la mamma, ho richiuso la porta. Poi ho sentito venire da fuori, tra i cespugli, una specie di ululato, come se fosse quello di un cane, ma più feroce, più profondo. Sono andata alla finestra per guardare fuori, ma non ho visto nulla, tranne un grosso pipistrello che evidentemente era andato a sbattere con le ali contro la finestra. Sono quindi ritornata a letto, ma sempre decisa a non dormire. Subito dopo si è aperta la porta e la mamma ha dato un'occhiata, e accortasi dai miei movimenti che non dormivo, È entrata e si è seduta vicino a me. Mi ha detto, con una tenerezza anche maggiore del solito, «Non mi sentivo tranquilla per te, tesoro, e sono venuta a vedere se tutto andava bene». Dopo un po', tra i cespugli si è levato ancora quel basso ululato e quasi subito un formidabile urto ha spaccato la finestra e una quantità di vetri rotti si sono sparsi sul pavimento. Una folata di vento ha spinto indietro la tenda e nell'apertura, tra il vetro infranto, è apparsa la testa scarna di un grosso lupo grigio. La mamma, lanciando un urlo di spavento e drizzandosi faticosamente a sedere, si è messa a cercare con affanno qualcosa per potersi difendere. Tra l'altro si è aggrappata alla ghirlanda di fiori che il dottor Van Helsing insiste a farmi tenere intorno al collo e me l'ha strappata. Per un attimo o due è rimasta a sedere, indicando il lupo. Poi, dalla gola, le è uscito un gorgoglio strano, orribile, ed è crollata come colpita dal fulmine. La sua testa ha battuto contro la mia fronte e per un momento io sono rimasta stordita. Sembrava che la stanza e tutto quanto mi circondava roteasse intorno a me. Tenevo gli occhi fissi sulla finestra e ho visto il lupo ritirare la testa. Poi mi è parso che una miriade di puntolini entrasse dalla finestra rotta, girando e volteggiando intorno, come quelle colonne di sabbia che raccontano i viaggiatori si levano nel deserto quando soffia il simun. Ho cercato di muovermi, ma era come se un incantesimo pesasse su di me e il corpo della mia povera, cara mamma, che già cominciava a raffreddarsi perché il suo cuore aveva cessato di battere, mi gravava addosso e per un poco ho perduto la conoscenza. I rumori evidentemente avevano svegliato anche le cameriere, perché ho sentito i loro piedi scalzi scalpicciare dietro la mia porta. Al mio richiamo sono entrate e quando hanno visto quello che era successo e che cosa giaceva sopra di me nel letto, si sono messe a urlare. Il vento soffiando attraverso la finestra rotta ha fatto sbattere la porta. Le donne hanno sollevato il corpo della mia cara madre e dopo che io mi ero alzata l'hanno disteso sul letto e coperto con un lenzuolo. Erano tutte talmente spaventate e nervose che ho ordinato loro di scendere in sala da pranzo a bere un bicchiere di vino. La porta si è spalancata per un attimo, poi ha sbattuto di nuovo e le cameriere hanno ricominciato a strillare, poi sono scese insieme in sala da pranzo. Io ho deposto tutti i fiori che avevo sul petto della mia cara mamma. Subito dopo mi sono venute in mente le raccomandazioni del dottor Van Helsing, ma togliere i fiori mi dispiaceva e inoltre una delle domestiche avrebbe vegliato con me. Stupita di non vederle ritornare, le ho chiamate e non ricevendo risposta sono scesa a cercarle in sala da pranzo. Mi sono sentita mancare quando ho visto quello che era successo. Tutte e quattro giacevano inerti sul pavimento, il respiro pesante. La caraffa dello sherry, piena per metà, era sulla tavola. Ma c'era nell'aria uno strano odore acre. Insospettita ho esaminato la caraffa. Sapeva di laudano. Guardando sulla credenza, ho scoperto che la bottiglietta di laudano, quella che il medico della mamma usa per lei, usava. Era vuota. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono di nuovo in camera con la mamma, non posso lasciarla e sono sola, escluse le domestiche che dormono, perché qualcuno le ha drogate. Sola con la morta. Non oso uscire perché sento il cupo ululato del lupo fuori dalla finestra rotta.